La siepe di viole è rifiorita, chi mai da Carmencita comprarle vuole? Ne ho colmi cesti, venite siate lesti, orsù signori, comprate i fiori. Oh signora, signorita, le violette mi comprate, che la man di Carmencita ha raccolte ed intrecciate per recarle alla città. Adornatevi, signore, del sereno fior gentile, nel silenzio al vostro cuore in un fascino sottile dolci cose vi dirà. Voi bella signorina, così galante, sareste più carina ed elegante se sulla veste a profusion metteste i fiorellini dei miei cestini. Oh mia bella signorita, dalla man di Carmencita accettate la violetta, col color della tua eletta assai ben si sposerà. Dalle ceste ancora piene un bouquet prendete almeno, e colui che vi vuol bene poi guardandole sul seno queste viole invidierà. Dalla man di Carmencita ora vola in tutta fretta fin quest'ultima violetta, ben felice chi l'avrà. Mi dovete perdonare, non ho altro questa sera, cosa mai vi potrei dare la più bella violetera? Può dar solo questa.